L'accettazione della Bolognese, ovviamente il titolo è chiaramente ironico, perché io penso che a Bologna si sia declinato negli ultimi anni una versione particolare di questo concetto, che è un concetto ovviamente importante, un concetto nobile se vogliamo, un concetto che ha una sua tradizione culturale e politica che viene da lontano e che in questa regione ha avuto anche degli effetti concreti che in parte rimangono ancora nelle realizzazioni istituzionali, sia pure in maniera molto pallida. Diciamo che però il partito di maggioranza e l'amministrazione locale negli ultimi anni hanno costruito intorno a questo termine una vera e propria retorica che ha spogliato il termine del suo significato reale. Quindi a me sembra che più è aumentata la istituzionalizzazione della partecipazione, più è aumentata l'enfasi che si è posta su questo concetto, più sono aumentate le pratiche concrete di diffusione della partecipazione in città e meno si è creato davvero partecipazione. Voglio dire che si è dato luogo a una serie di pratiche partecipative che di partecipativo hanno il nome ma non la sostanza. Questo è il cappello introduttivo che mi sento di fare per spiegare un po' perché il titolo un po' ironico che abbiamo dato a questo intervento. Voi di questo tema ve ne siete occupati con un libro collettivo a cura della rivista Gli Asini, in cui appunto si parlava proprio di questo tema e si esaminavano anche i vari strumenti messi in campo dal comune, per esempio il bilancio partecipativo, ma poi anche lo strumento delle convenzioni, diciamo, degli accordi siglati dal comune. Sì, infatti, come dicevi, il gruppo bolognese della rivista Gli Asini ha pubblicato un anno fa questo volume, Che punto è la città, dove mettiamo a fuoco una serie di punti critici dell'amministrazione pubblica. Un capitolo è dedicato proprio alla retorica della partecipazione e qui mettiamo insieme e cerchiamo di vederli anche un po' nella loro evoluzione storica i vari istituti partecipativi. Tra quelli più recenti ci soffermiamo appunto sul bilancio partecipativo, perché ovviamente è una cosa inaugurata l'anno scorso su cui il Comune ha posto molta attenzione, però noi facciamo notare come questo bilancio partecipativo in realtà sia appunto poco partecipativo, innanzitutto perché mette a disposizione dei quartieri che poi devono amministrare i processi partecipativi e realizzare gli interventi che i cittadini propongono, e qua ai quartieri vengono messe a disposizione risorse veramente esigue, per non dire ridicole. Complessivamente parliamo dello 0,11% del bilancio complessivo del comune, contro più o meno il 25-30% che era stato messo a disposizione della comunità di Porto Alegre, a cui il concetto di bilancio partecipativo fa un riferimento dal punto di vista genealogico, perché è lì che l'hanno inventato. Quindi questo è un primo grandissimo problema, e poi sono i meccanismi stessi di funzionamento del processo partecipativo che diciamo depotenziano enormemente questo strumento, che potrebbe essere sicuramente interessante. C'è un ricorso, un'accentuazione del ruolo dei facilitatori, questo lo vediamo anche in altri processi partecipativi, no? Quindi delle figure specializzate che devono mediare le esigenze che i cittadini esprimono, e questa è diciamo la formazione di un vero e proprio ceto specializzato che espropria in gran parte i cittadini dalla propria capacità di ideare idee, processi innovativi. E poi c'è questa idea della competizione a cui anche il nostro comune, evidentemente, di cui il nostro comune non può fare a meno e che impera in tanti settori della vita sociale, che veramente mostra ancora anche in questo caso una subalternità a un'ideologia di mercato che tutto mette in competizione, perché appunto i progetti presentati nel bilancio partecipativo, come sappiamo, poi vengono messi ai voti, bisogna premiare il migliore, quindi l'idea di una cooperazione cittadini di diversi quartieri che appunto collaborano insieme alla strutturazione di progetti innovativi e utili per la città viene meno, scalzata da questa ideologia della competizione a tutti i costi. Poi ci sono i patti di collaborazione, che sono un po' il fiore all'occhiello del comune, anche se ultimamente sembra averli messi un po' da parte, e anche qui vediamo una contraddizione tra diciamo l'enunciazione, per cui i patti sono diciamo lo strumento attraverso cui cui i cittadini dovrebbero prendersi cura di spazi pubblici e la realtà, perché noi sappiamo che in realtà gli spazi pubblici in questa città sono tantissimi, parlo di spazi pubblici inutilizzati, dismessi, abbandonati, lasciati al degrado, ma di questa vera e propria enorme fetta della città non si parla, e gli spazi pubblici lasciati, diciamo, all'uso, a disposizione dei patti collaborativi sono in realtà spazi residuali, piccoli, diciamo che non incidono assolutamente sull'equilibrio urbanistico e culturale complessivo della città. Si lascia ai cittadini la possibilità di esprimersi anche qui con una mediazione dei facilitatori di professione su cose che davvero sono marginali. Quindi in sostanza gli esempi si potrebbero moltiplicare ovviamente, ma in estrema sintesi quello che si è fatto in questa città negli ultimi anni è creare un'illusione di partecipazione, mentre i processi decisionali venivano allontanati il più possibile dagli occhi, dalle mani e dal cervello dei cittadini stessi. Tu prima parlavi di quanto venga utilizzata la retorica della partecipazione da questa amministrazione, e il caso di XM24 ne è un esempio abbastanza lampante. Il tema della partecipazione è stato usato più volte, sia nel caso dell'assegnazione degli spazi, quindi per esempio pubblicizzando l'assegnazione di uno spazio XM che non era effettivamente avvenuta, ma anche con la questione della lettera, l'ultima che è arrivata poco tempo fa, in cui si rimarcava il fatto che XM24 non avesse risposto a quelle lettere, quindi cercando di costruire una narrazione in cui in qualche modo XM non vorrebbe relazionarsi con il comune, tra l'altro una dinamica che era già stata utilizzata nel caso di un altro sgombero politico, che era quello di Atlantide. Certo, ma infatti XM è un altro caso esemplare di tanti casi esemplari che ci sono stati in questa città negli ultimi anni. Gli sgomberi sono stati numerosi e non sto qui a fare l'elenco perché la vostra radio se ne è occupata molto a lungo. Quello di XM non è ancora uno sgombero, ma è uno sgombero annunciato, quindi ci sono tutti i presupposti perché questo possa avvenire realmente in futuro. È un altro caso esemplare perché se guardiamo bene a tutto ciò che è stato detto su XM24, quello che salta agli occhi è che non emerge da parte dell'amministrazione comunale una ragione vera, fondata, chiara sul perché bisogna liberare questo spazio, che è uno spazio pubblico, tra l'altro regolarmente assegnato tempo fa dall'amministrazione stessa. Non c'è una ragione vera, tant'è vero che in luogo delle ragioni vere sono stati accampati degli altri ragionamenti, una parola grossa, sono state prese delle scuse, diciamo, no, lì bisogna realizzare un'altra cosa, quest'altra cosa è di volta in volta una caserma dei carabinieri che poi con una bacchetta magica è stata trasformata in una serie di edifici di co-housing. Quindi XM dovrebbe andare via lì per far spazio a qualcosa di più utile rispetto a cosa? Se, diciamo, gli amministratori avessero l'intelligenza di essere politicamente onesti, non potrebbero non riconoscere a XM di essere stato uno dei luoghi della partecipazione sociale a questa città. Nessuno può negare che XM abbia nelle sue forme peculiari partecipato alla vita sociale di questa città. Il problema è che oggi la parola partecipazione pronunciata dai nostri amministratori locali incorpora un giudizio di conformità, e questo è il fatto. E questo è il fatto grave, questo è il fatto peculiare, il fatto nuovo, incorpora un giudizio di conformità. Quindi tutto ciò che non è conforme a un canone prestabilito di partecipazione esce dalle regole, esce dagli schemi, non può essere tollerato e quindi va normalizzato, e laddove non si riesce a normalizzarlo, come evidentemente in questo caso, va chiuso. Questo è il grande problema del concetto di partecipazione: da un lato separare la partecipazione dalla decisione, quindi i cittadini possono partecipare in forme marginali, controllate, normalizzate, purché non decidano, e bisogna che partecipino in una maniera conforme a un canone prestabilito, e se questo non avviene, questa conformità va in qualche modo ristabilita dall'alto.